Focus Economia di Sebastiano Barisoni. A 7:10 minuti inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: dunque, che la riforma della pubblica amministrazione non fosse una passeggiata, l'avevamo chiesto anche al ministro Boschi, se non ritenesse più difficile la riforma della pubblica amministrazione complessivamente che quella del Senato. E lei ha risposto una bella lotta. Oggi, tra ieri e oggi, ce ne siamo accorti. Infatti ne parleremo nella seconda ora del programma. Il ministro Madia, che era delega, Marianna Madia, alla pubblica amministrazione, durante il confronto con i sindacati sulla riforma, in parte questo ve l'ha già anticipato il nostro GR, ha detto insomma spero nell'impegno del sindacato contro le resistenze, ma da quello che si è capito ha negato l'ipotesi dei 100 chilometri per quello che riguarda la mobilità della pubblica amministrazione. Non li abbiamo mai presi in considerazione, non immaginiamo di stravolgere la vita delle famiglie, ma la mobilità è necessaria per evitare esuberi e rispettare i lavoratori. Questo riferiscono i sindacati dopo l'incontro con il ministro. E in caso di esuberi e in assenza di criteri e modalità condivise con i sindacati, la pubblica amministrazione può procedere alla risoluzione unilaterale. Quindi, se c'è un esubero senza sostituire il lavoratore, che per tutti coloro i quali entro il biennio successivo maturano il diritto d'accesso. Che vuol dire? Vuol dire sostanzialmente, se vi sono esuberi fino a 2 anni si può applicare il prepensionamento, ed è una risoluzione che può prendere la pubblica amministrazione anche senza un accordo con i sindacati. Si ipotizza un taglio delle spese di almeno l'1% nei prossimi 5 anni. Arriverebbero il telelavoro e il voucher per la babysitter, però, e poi i bonus, il tetto massimo per i bonus dei dirigenti pubblici fissato al 15% dello stipendio, una retribuzione legata sia al risultato sia all'andamento del PIL. La CGIL dice: prima di scioperare aspettiamo di vedere il testo della riforma. Ancora, sarebbe saltata la parte che riguarda il ruolo unico della dirigenza e i contratti a termine, riguarderanno solo i dirigenti degli enti locali, sparita anche l'abolizione della Covip e dei segretari comunali. Questo per quello che riguarda le ultime modifiche. Domani, ricordo, sarà all'esame del Consiglio di Amministrazione la riforma della pubblica amministrazione, anche se il governo ha già chiarito che il grosso arriverà con una legge delega. Di questo, ripeto, parleremo nella seconda ora del programma. In apertura, altre notizie che riguarderanno l'economia italiana a partire dalla dichiarazione del ministro Padoan, un caso virtuoso di chi investe in Italia e assume, e che vanno cercati un po' con il lanternino, ma ci sono. E poi per quello che riguarda gli altri temi, anche il rapporto col mondo bancario. Oggi ne ha parlato il ministro Padoan, ha detto: dopo l'iniziativa della Banca Centrale Europea, a questo punto dalle banche arriverà un'iniziativa più forte a sostegno dell'economia. In realtà gli ha risposto poi il presidente dell'ABI Patuelli: siamo già attivi per la ripresa, siamo il settore più attivo nella spinta per investimenti per favorire la ripresa. E allora evidentemente viene da capire che l'iniziativa di Mario Draghi fosse rivolta alle altre banche, non a quelle italiane, perché invece Mario Draghi, proprio nell'annunciare un insieme di iniziative tra cui un prestito a medio e lungo termine per le banche a patto che lo utilizzino per l'economia, per le imprese, per le famiglie, tranne che per i mutui, aveva ricordato che questo serve perché manca ancora una parte dell'apporto del mondo bancario. Comunque, evidentemente ci sono diverse posizioni su questo, ne parleremo più avanti. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le notizie in breve. Partiamo da ai mercati, questa volta però ai mercati delle cosiddette commodity. L'oro è leggermente salito, ma soprattutto il petrolio oggi ha avuto un'impennata di quasi il 2%, è arrivato anche oltre i $112, spinto dalle tensioni in Iraq. Gli impianti del sud Iraq sarebbero ancora al sicuro, ma sale chiaramente l'allarme per l'intero paese. Per quello che riguarda invece l'economia internazionale, confermiamo anche la notizia: Standard & Poor's ha mantenuto il suo giudizio sulla Cina, AA-, mentre il Fondo Monetario Internazionale ha lanciato un allarme sui prezzi delle case in molti paesi sopra la media storica. Varrà per la Gran Bretagna, varrà forse anche per gli Stati Uniti, sicuramente non vale per l'Italia, quindi è un allarme per alcuni paesi. Mentre per quello che riguarda la Banca Centrale Europea, faccio notare una cosa, così mi ricollego anche al tema delle banche. Non saranno le banche italiane, però da quando la Banca Centrale Europea nell'ultimo incontro, la settimana scorsa, ha deciso per la prima volta nella sua storia di rendere negativo il tasso con cui le banche possono depositare alla BCE di notte i soldi e riprenderli la mattina, l'overnight, -0,1, vuol dire che ci vanno a perdere. Beh, c'è una vera e propria fuga dai depositi della Banca Centrale Europea. Dopo l'entrata in vigore della remunerazione negativa, ieri -25 miliardi di euro, che è il minimo dal 2011. Questo per quello che riguarda i depositi overnight delle banche alla Banca Centrale Europea, la quale oggi dice il rischio di deflazione resta remoto, però c'è una bassa inflazione, ci saranno nuovi interventi se continuerà a esserci un problema di una bassa inflazione per un periodo prolungato. La ripresa è più debole delle attese, la disoccupazione resta alta. Bene l'andamento del deficit in Italia, ora servono più sforzi, la priorità deve essere concentrata nel medio termine sul debito. Restiamo in Europa, dove il Tribunale dell'Unione Europea ha confermato la multa da 1 miliardo e 6 milioni di euro a Intel per aver dominato la sua posizione dominante nel mercato dei processori tra il 2002 e il 2007, respinto il ricorso di Intel, che aveva avanzato un ricorso contro la decisione della Commissione Europea. Sempre sul fronte dei grandi gruppi, in questo caso europei, Mitsubishi Heavy Industries e Siemens stanno lavorando a un'offerta congiunta da circa 7 miliardi 250 milioni di euro per acquisire il controllo delle turbine a gas e a vapore prodotte da Alstom, in modo da potersi dividere il business energetico della conglomerata francese. Questa sera aprono i mondiali, come sanno tutti praticamente. La cosa interessante è che la Goldman Sachs si è messa a fare le previsioni sui mondiali di calcio. Ha messo a lavoro un team di analisti guidati dall'autorevole capo economista Hans Atzius per stilare le previsioni sui mondiali di calcio. Nella precedente edizione le previsioni di Goldman Sachs erano state in buona parte azzeccate e la banca d'affari usa un proprio indice specifico che porta in alcuni casi scostamenti significativi rispetto anche alle previsioni dei bookmakers. Comunque, volete sapere cosa prevede Goldman Sachs? Prevede che il Brasile vada in finale e vinca i mondiali 48%, segue l'Argentina con il 14%, la Germania con l'11% delle possibilità, la Spagna col 10%, l'Olanda con 5,6%, l'Italia e l'Inghilterra con l'1,5%. Lo studio viene giustificato perché poi si ritiene che vi possa essere un impatto positivo sul PIL della vittoria dei mondiali. In realtà, quando l'abbiamo vinto noi l'ultima volta, questo non è accaduto. Speriamo che Goldman Sachs ci azzecchi di più nel prevedere i mondiali, o anzi, vista la classifica, speriamo di no. Speriamo che abbia lo stesso tipo di imprecisione nell'azzeccare i mondiali che ebbe a suo tempo nel 2008, quando previde a luglio un petrolio vicino, se non ricordo male, ai $160 al barile. Dopo due mesi iniziò la più grande crisi economico-finanziaria dal 29, con un crollo del barile intorno ai $40. Ecco, speriamo, vista la stima che dà dell'Italia, che vada un po' come andò per il petrolio. Italia, il nostro BTP Bund, quindi lo spread è a 140 punti, il rendimento del BTP italiano a 10 anni al 2,80%, di nuovo però un ottimo andamento dell'asta del tesoro italiano, collocati tutti gli 8 miliardi e mezzo oggi in offerta, con un tasso che è il nuovo minimo record, 0,89% per scadenza maggio 2017. E fa bene ovviamente il tesoro a collocare in questo periodo la maggior parte dei BTP. Ieri abbiamo visto il botto a un anno, minimo storico di nuovo, perché con questi tassi ottieni il miglior finanziamento possibile, tassi ai minimi e domanda alta. Vedo già molti messaggi e richieste sulla riforma della pubblica amministrazione. Adesso ci arriviamo. Alcuni dicono: ma perché si lamentano dei 100 km? Io lavoro a 85 km di distanza. Guardate, adesso ripeto, avremo tutta la seconda ora dedicata a questo, però il punto a me sembra introdurre il concetto della mobilità, poi che siano 100 km, che siano 40, che siano 30, 20, lo vedremo, introdurre il concetto dei prepensionamenti anche su base unilaterale, cioè che se ci sono degli esuberi, come avviene nel privato, tu vai a prepensionare quando mancano almeno 2 anni all'età del pensionamento, cioè, e introdurre anche il bonus per i dirigenti della pubblica amministrazione, che abbiamo raccontato moltissime volte, tutti quanti raggiungono gli obiettivi, sono tutti bravissimi, tutti dei geni. Ecco, introdurre un tetto al bonus è legato anche a una valutazione del rendimento, diciamo, del dirigente stesso. Quella sarebbe la rivoluzione. Che poi i chilometri siano 20, 50 o 60 mi sembra, diciamo, secondario da questo punto di vista. Il ministro Padoan oggi, durante il suo intervento alla Borsa Italiana organizzato dal Fondo Italiano di Investimento, l'economia italiana e quella europea sono di fronte a un bivio: o vivacchiare per i prossimi 5-10 anni oppure crescere. Anche l'Europa, a mio avviso, si trova di fronte all'alternativa di vivacchiare e quindi non aggredire la disoccupazione oppure cambiare passo. Io spero che lo faccia. Posso dire sicuramente che l'Italia, che come sapete diventerà Presidente dell'Unione Europea in un paio di settimane, metterà al centro del tavolo di discussione dei ministri dell'economia e finanza, ma in generale dei governi europei, il tema della crescita e dell'occupazione. L'Europa in questi anni di crisi, che sono stati molto lunghi, ha via via affrontato vari problemi, ha affrontato prima il problema della ripresa del consolidamento della finanza pubblica, che rimane condizione indispensabile per la stabilità, ha affrontato con strumenti anche innovativi il problema di crisi strutturali di paesi della periferia dell'euro, che oggi stanno, dopo periodi molto dolorosi, uscendo con crescita positiva e risanamento dei sistemi bancari. Sta affrontando e ha fatto molti passi avanti il problema della riparazione, come si dice in inglese, del sistema finanziario e la costruzione dell'unione bancaria. Quello che non ha fatto è ovvio. Cosa manca da questa lista? Manca appunto crescita e occupazione. Poi ascolteremo dopo altri passaggi dell'intervento del ministro Padoan, però il presidente del Comitato Tecnico Credito e Finanze e Confindustria, Vincenzo Boccia, ha così commentato l'azione del governo per portare il paese fuori dalla crisi economica, anche perché si parla appunto del Fondo Italiano di Investimento e del Fondo Valore d'Insieme, oggi la Borsa Italiana. Sentiamo Boccia su questo. Dobbiamo intervenire sulle 3 grandi questioni del Paese: debito, deficit e crescita. L'orientamento sulla crescita comincia a vedersi, sul debito dobbiamo stare attenti, tenere il deficit sotto controllo, sono 3 cose, ahi noi, da fare contemporaneamente. Mi sembra che si sia imboccata una giusta strada, non bisogna demordere, il Paese ha tutte le potenzialità per farcela, questo mi sembra la lettura dei dati. Per quanto riguarda invece lo spread è particolarmente basso, questo potrebbe aiutare nel quadro? Assolutamente sì, significa che il percepito, diciamo, del mondo esterno è positivo sulle aspettative dell'Italia. Devo dire che anche le ultime decisioni di Banca d'Italia aiuteranno secondo noi la questione credito in senso lato, e non a caso abbiamo qualche giorno fa approvato in comitato di presenza di Confindustria un'agenda per il credito e per la crescita del paese che dà una dimensione organica anche di questo aspetto della questione. Le banche però devono fare la loro parte. Ma in questo paese ormai ognuno deve fare la loro parte, a partire dalle banche, dalle imprese, dal governo, ognuno è parte corresponsabile del futuro di questo paese. Tutti devono giocare una partita comune. Il governo sta cominciando a fare quello che si dovrebbe fare, la cosa importante è che si esca da questo stato di ansietà dell'economia, che si metta mano alle grandi riforme in maniera organica e massiva, quantitativamente rilevanti. Mi sembra che i dossier sono sul tavolo, ci aspettiamo decisioni importanti, ci stiamo confrontando serratamente anche con tutti i ministri. I tempi più o meno. Sicuramente c'è una potenzialità di liquidità, sulle stime diciamo di tasso di interesse non lo sappiamo. C'è anche l'altra questione pagamenti pubblica amministrazione, che il nostro centro studi prevede che il 20% di quei flussi andrebbero ad investimenti. Quindi la questione credito poi si collega anche alla crescita e quindi anche alla questione PIL. E poi invece si è parlato, questa è l'intervista di Vincenzo Boccia realizzata dalla nostra Anna Marino, si è parlato anche del collocamento in borsa di Fincantieri. E dopo il collocamento la Cassa Depositi e Prestiti manterrà attraverso Fintecna la maggioranza comunque assoluta di Fincantieri, quindi almeno oltre il 50%, lo ha confermato l'amministratore delegato della CDP Giovanni Gonno Tempini. L'estate non è ancora finita, stiamo lavorando in quella direzione, sì. Quindi CDP Reti è un'operazione sulla quale ci aspettiamo delle novità entro l'estate. Non faccio commenti su azioni quotate, abbiamo fatto una dichiarazione ufficiale a proposito del passaggio della soglia del 2%. È noto che noi abbiamo un impegno nei confronti della Banca d'Italia nel momento in cui ci è stata conferita la quota, con calma a dismettere l'intera quota. Ecco, ci sono importanti operazioni anche per la Cassa Depositi e Prestiti in vista, anche per privatizzazioni, per altre operazioni. Sarete molto impegnati di qui in poi? Siamo molto impegnati, sì, la risposta è sì, siamo molto impegnati. L'operazione più immediata sulla quale siamo tutti concentrati è certamente Fincantieri. È un'azienda che ha una storia straordinaria, un esempio dell'industria italiana che ce la fa, di successo, e stiamo lavorando perché sia ben compresa, ben capita e possa quindi la quotazione essere una storia di successo. Ha avuto qualche commento e feedback dall'America anche? Il percorso toccherà potenziali investitori di tutto il mondo, quindi non è solo America ma anche Asia e Europa. Noi manterremo una soglia di controllo quindi superiore al 50%. E adesso la vicenda Alitalia. Il numero uno, Gabriele Del Torchio, ha confermato dopo l'incontro con i sindacati che gli esuberi sono 2250 e sono una condizione necessaria perché l'azienda possa avere una dimensione efficiente e competitiva, ma ha anche aggiunto che non partiranno le lettere per gli esuberi, per i licenziamenti collettivi, prima dell'incontro con i sindacati. E poi il presidente del consiglio di gestione di Intesa San Paolo, Gianmaria Grospietro, Intesa San Paolo è una delle due banche con il credito che più ha dato soldi, prestato soldi dall'Italia, ha detto che la cosa importante è il piano industriale, sempre a margine del convegno oggi in Borsa Italiana, è sempre il microfono della nostra Anna Marino. La cosa importante è il piano industriale. Se il piano industriale viene approvato, se le condizioni poste da Etihad sono approvate da tutti coloro che sono interessati, il futuro di Alitalia può diventare un futuro di crescita. Ogni banca e ogni soggetto deve fare la sua parte. ancora alcune notizie in breve, poi arriveremo anche a altri elementi. Allora, il vicepresidente del gruppo indiano JWS Sajan Jindal dovrebbe incontrare domani a Roma, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il commissario straordinario della Lucchini Piero Nardi, e potrebbe poi formalizzare un'offerta d'acquisto degli impianti siderurgici di Piombino. La situazione lì è gravissima. Jindal avrebbe chiesto un'ulteriore proroga per presentare l'offerta vincolante e vorrebbe altri 15 giorni. Altra vicenda invece, l'Expo, dopo le polemiche di questi giorni tra il governatore Maroni e il premier Renzi. Oggi ha parlato il numero uno, il commissario unico dell'Expo, Giuseppe Sala, ha detto: siamo nei tempi, ma domani è un giorno importante, domani è il giorno in cui il Consiglio dei Ministri deve approvare, tra le altre cose, anche i poteri di Cantone, quindi del commissario dell'autority anticorruzione. Abbiamo già raggiunto, ha continuato Sala, la vendita di 500.000 biglietti, stiamo andando verso il milione. E poi un po' di confusione sulle agenzie, perché sembra che Sala abbia detto: stiamo già vendendo un milione di biglietti in Cina, però insomma lo ha detto in effetti a margine della presentazione del padiglione cinese. Un milione, l'obiettivo di un milione di biglietti venduti ai cinesi viene confermato invece dal dato complessivo della vendita di biglietti per l'Expo. Ha detto Sala: sono già 3 milioni i biglietti venduti, di cui appunto 500.000 per i tour operator cinesi, ma si spera di arrivare a 1 milione venduti ai tour operator cinesi. E visto che parliamo di turismo e flussi di turismo, si è conclusa a Massa Alam l'incontro organizzato da Confindustria, dalla STOI e quindi e dal Ministero del Turismo egiziano e da Ainet per rilanciare, diciamo, il turismo egiziano dopo chiaramente la primavera araba e anche tutto insieme di scontri e tensione. Allora, gli arrivi in Egitto si sono dimezzati nel 2013, circa 500.000 arrivi. Era la prima meta extraeuropea per il nostro paese, ma chiaramente l'avviso, il travel warning della Farnesina, che riguardava una parte solo del paese, ha scoraggiato l'arrivo di molti turisti. Da qui appunto l'iniziativa di Confindustria, STOI, Ministero del Turismo egiziano. L'ha seguita la nostra Roberta Pellegatta, che ha intervistato anche il neopresidente di STOI, Luca Battifora. Gli ultimi anni sono stati difficili, abbiamo dimezzato il traffico, però vediamo dei segnali di ripresa. I segnali positivi sono comunque che il cliente italiano chiede questa destinazione, specialmente in determinati periodi dell'anno, perché non ha molte alternative. Ci auguriamo non sia così, ma nel caso questi segnali positivi si dimostrassero illusori, quale sarebbe la ricaduta sull'industria turistica italiana? Perché davvero l'Egitto è una meta, insomma, fondamentale. Sì, ha detto bene, fondamentale, è la seconda destinazione più scelta dai turisti italiani. Le ricadute sarebbero quelle che abbiamo già vissuto, perdite ingenti nei conti economici delle imprese, quindi con ricadute sui posti di lavoro. A volte noi siamo riconosciuti come aziende che portano all'estero ricchezza, invece non è proprio così, perché per ogni cliente che noi facciamo viaggiare in Italia e in giro per il mondo, lavorano decine di persone in Italia per organizzare quel viaggio. Quindi ogni ricaduta che ha sulle imprese poi inevitabilmente si ripercuote sull'occupazione. Questo evento così particolare, così importante, dall'area dell'emergenza Egitto, perché è così? No, non è un'emergenza, è un evento che non esito a dichiarare unico, mai realizzato, che ha visto convergere per un obiettivo unico, che è quello di dare supporto al rilancio di questa destinazione, anche le istituzioni che a volte, paradossalmente, pur essendo il paese più ricco, che ha più ricchezza di turismo, a volte siamo un po' distanti dalla cultura del turismo, pensare che non abbiamo neanche un ministero del turismo in Italia. Ecco, io credo che se anche noi associazioni, come ASTOI, dalla quale io sono presidente, lavoriamo con questa concretezza, sarà anche più facile sensibilizzare le nostre istituzioni. A proposito del suo mandato che è appena iniziato, ecco, quali sono i progetti per il futuro? Cosa chiede al governo, che qualcosa ha già fatto, sta facendo, ma non è abbastanza? Cercheremo con i nostri interlocutori istituzionali di fissare pochi obiettivi ma molto chiari. abbiamo un bisogno di rivedere completamente la struttura del fondo di garanzia, perché innanzitutto dobbiamo pensare alla tranquillità dei nostri passeggeri, dei nostri turisti, dei nostri clienti in giro per il mondo. Fino ad oggi questo fondo di garanzia non è capiente e abbiamo supplito noi con le nostre risorse economiche, con le singole aziende, le singole imprese, cosa che oggi non è più possibile. Poi lavoreremo sul codice del consumo e cercheremo comunque di dare delle regole semplici che aiutino a sviluppare progetti e investimenti nelle imprese del turismo, perché questo genera ricchezza. 10% del PIL, noi dovremmo avere nel nostro DNA in primis il turismo come paese. Siamo uno dei paesi più belli al mondo, abbiamo il più grosso patrimonio storico architettonico. Ma non siamo competitivi? No, non siamo competitivi e soprattutto non facciamo sistema. Questa è la storia che io immagino, una storia concreta, aperta al dialogo, che guarda a cosa serve fare e cerca di farlo. Concretamente cosa serve fare? Tecnologia, comunicazione, capire che il valore aggiunto che danno determinate imprese non può essere solo sull'online, perché se noi abbiamo scoperto le principali mete del Mar Rosso e dell'Egitto, l'abbiamo fatto per l'intuito imprenditoriale e per la capacità di interpretare una visione di un prodotto che non può essere su un online o su uno schermo. L'online deve essere nostro alleato, ma dobbiamo tornare a parlare di qualità di servizio e quindi dobbiamo tornare a parlare delle imprese che lavorano nel settore. Fare impresa oggi nel turismo è estremamente faticoso, ma siamo forti, abbiamo passato la crisi più brutta a livello economico dal dopoguerra ad oggi e quindi non posso che essere positivo sul futuro. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Allora, dicevamo, li cerchiamo un po' col lumicino, ma casi positivi, o meglio, stanno anche rientrando negli ultimi mesi gli investimenti. Prima sono entrati sul debito e l'abbiamo visto dal calo dello spread e dei rendimenti, anche l'interesse paventato e presentato nel doppio senso dalle imprese cinesi nei confronti degli investimenti in Italia in questa missione del Premier Renzi lo conferma, e che vi sia un nuovo interesse da parte degli investitori stranieri per il nostro paese, non solo per acquisire marchi o la filiera, parlo del tessile o di altri mondi, ce lo conferma anche una tra le prime 10 società farmaceutiche globali. Eli Lilly & Company è a sede a Indianapolis negli Stati Uniti, si è concentrata soprattutto sullo sviluppo e la commercializzazione di farmaci innovativi, diverse le aree terapeutiche cruciali per la salute, insomma il diabete, l'oncologia, le neuroscienze, la veterinaria. È presente in Italia da 50 anni, per la precisione a Sesto Fiorentino, con 1000 dipendenti. Però adesso ha annunciato anche un investimento importante proprio nel nostro paese. Allora sono in collegamento con il direttore degli affari istituzionali Concetto Vasta, buonasera. Buonasera allora, a tutti. Lei appartiene a un gruppo che nel mondo ha fatturato l'anno scorso 23 miliardi di dollari, più 2%, con un utile insomma di intorno ai 4 miliardi e 600 milioni, più 15% l'anno scorso, e sono circa 38 mila dipendenti mondiali, di cui quasi 8 mila impiegati in ricerca e sviluppo. 125 paesi in cui siete presenti. Qual è l'investimento e l'aumento dell'investimento che farete in Italia? Beh, diciamo che oggi è stata una giornata molto bella per la Eli Lilly Italia. Beh, perché abbiamo inaugurato la seconda linea di produzione dell'insulina. Noi facciamo qui in Italia l'insulina che esportiamo. Insulina. Sì. Che esportiamo in 54 paesi del mondo, e da settembre si aggiungerà il 55esimo, che è la Cina. Quindi l'insulina Made in Italy sarà esportata anche in Cina. E oggi abbiamo inaugurato la seconda linea e abbiamo comunicato dello stato di avanzamento, insomma abbiamo avuto l'ultimo ok per la terza linea, che vedrà aggiungere altri colleghi, altre 150 assunzioni, e porterà la capacità produttiva del sito italiano a quasi il 50% di tutta l'insulina che la Eli Lilly produce a livello mondiale. Quindi il 50% si farà in Italia. Ecco, a questo punto i dipendenti dello stabilimento di Sesto Fiorentino, immagino, a quanto arriveranno? Ecco, solo il sito produttivo arriverà a 700 persone l'anno prossimo. E poi oggi, a conclusione della cerimonia, fra il presidente della regione Toscana e il nostro CEO è stato siglato una, diciamo, dichiarazione di intenti per un'ulteriore espansione nei prossimi anni, che dovrebbe portare in Italia la costruzione di una fabbrica ex novo, sempre per prodotti da biotecnologia, da DNA ricombinante. Ma se dicessi sui 500 nuovi dipendenti in tutto tra questi vari progetti, mi sbaglierei di molto? No, non credo che si sbaglierebbe, perché se 700 a conclusione di questo iter saranno i dipendenti dell'attuale sito di produzione, diciamo la costruzione di un nuovo sito che dovrebbe essere su giù di queste dimensioni, quindi credo che siamo abbastanza vicini. Ecco, senta, visto che lei appartiene a un gruppo mondiale con sede a Indianapolis, però appunto con presente in 125 paesi, dove a 13 paesi hanno stabilimenti produttivi, la ricerca e sviluppo viene realizzata in 8 paesi, l'investimento ulteriore in Italia sembrerebbe andare contro la logica comune, che si dice l'Italia non è un buon posto dove investire. Allora, i problemi più grossi che le rinfacciano, diciamo così, i suoi capi americani, ma anche il perché di un investimento ulteriore nel sito appunto di Sesto Fiorentino. Beh, il problema più grosso che noi abbiamo in Italia è sicuramente la stabilità delle regole. Purtroppo abbiamo una situazione che cambia costantemente, con delle normative non sempre molto chiare, quindi poco chiare e cambiano spesso. Questo è il nostro punto di debolezza. Per contro, il nostro punto di forza è che possiamo contare su una capacità della forza lavoro nettamente superiore alla media, e per il tipo di produzione che facciamo noi, che ha ad altissimo valore aggiunto, non è quello che incide, non è tanto il costo della forza lavoro quanto la capacità. Cioè, noi abbiamo un impegno con 55 paesi dove appunto produciamo, portiamo un prodotto salvavite, quello dell'insulina, per cui quello che noi interessa è che si mantenga un livello di produzione di altissima qualità. Non è il costo, il 10-15% di costo in più. No, questo va chiarito, perché lo pensano anche molti industriali. Ormai qui il problema non è più, è chiaro che il costo del lavoro non può esplodere, però la concorrenza, la competizione non la fai sul costo del lavoro, esatto, che tra l'altro dipende nella stragrande maggioranza dei casi dalla pressione fiscale, non da quanto guadagna il lavoratore in busta paga, e qui c'è tutto il tema del cuneo fiscale, ma comunque non la fai su quello, la fai sulle leggi, sui costi della burocrazia, sulla velocità della giustizia civile, oltre che penale ma soprattutto civile, e quindi e sulla preparazione. Per cui quando lei parla con gli americani, il tema del costo del lavoro, sì, sicuramente non fa piacere pagare il 10-15% in più, però non è quello di rimente, mi sembra di capire. Esattamente, non è questo che fa la differenza. La differenza è la qualità del lavoro che noi riusciamo qui a esprimere. E lei pensi che in questo momento la nostra squadra di ingegneri sta supervisionando la costruzione di una nuova fabbrica in Asia, e quindi hanno chiamato gli ingegneri italiani. Bene. Quindi questo ciò riconoscono e insomma, è il nostro punto di forza. Dobbiamo migliorare, ma io sono ottimista. Bisogna migliorare le regole. Ecco, le regole in questo paese. Speriamo. Allora, c'è qualcuno che dice che in questo modo sto facendo una pubblicità a Renzi. No, guardate, veramente avete dei problemi. In alcuni casi, che l'impianto sia a Sesto Fiorentino non me ne frega nulla, potrebbe essere in Piemonte, in Puglia. A me interessa che ci sia un investimento dove si creano nuovi occupati, e siccome avremo altri amministratori delegati su questo, per capire al di là degli stereotipi se veramente in Italia il problema è il costo del lavoro oppure il costo della burocrazia, della giustizia, dei tempi della giustizia, dell'incertezza delle regole, quali siano gli elementi competitivi. Non basta dire costano troppo operai che al netto in busta paga non ricevono nemmeno più della media europea. Comunque, grazie, in bocca al lupo a lei, ma soprattutto ai neoassunti che farete. Non capisco perché, se diamo una notizia positiva, c'è qualcuno che si lamenta, ecco, che fate uno spot al governo. Ma il governo cosa c'entra con la Eli Lilly & Company, che ha sede negli Stati Uniti? Lo sapete solo voi. rossa, dicevamo, oggi giornata non particolarmente significativa in tutta Europa, indici praticamente fermi a Parigi, forse l'attesa per il mondiale, scherzo, Francoforte -0.1, Londra invariata, l'America -0.1, l'Italia si muove pochino, -0.27%. In realtà oggi tra i titoli segnaliamo soprattutto Saipem +2.60, Telecom +1, Eni +1, Tenaris +0.60%, e invece tra chi cede Moncler -2.40, Mediolanum -2.30, Intesa -2, come World Duty Free +1.70, lo perde Finmeccanica +1.5, Mediaset +1%, Prismian +0.90, Azimut, ma anche Ferragamo, Autogrill e Unipol. Sai, ancora come ogni tanto facciamo, invitiamo non i colleghi di Radio Core ma i gestori per dare un po' il senso, chi ha studiato lo chiama il mood della borsa. Allora, dottor Roberto Brasca, vicepresidente di Acom SGR, buonasera. Buonasera. Vogliamo partire dal Monte dei Paschi per spiegare cosa è successo in questi due giorni, molti ascoltatori e anche molta polemica. Prima non riusciva a fare prezzo a rialzo, però bisognava riconsiderare il nuovo valore dopo l'aumento di capitale. È un aumento di capitale molto dilutivo, vuol dire che sostanzialmente azzera la quota, se uno non partecipa viene azzerata quasi la quota di partecipazione, sono 5 miliardi di aumento di capitale. Poi ieri ha fatto sballare un po' il listino, il peggior titolo -20%, che è successo? Ce lo spieghi lei? Ma è stato un aggiustamento tecnico, direi, nel senso che quando viene staccato un diritto di un aumento di capitale, come giustamente è stato detto, così diluitivo, tutto il valore si sposta dal titolo al diritto. Tuttavia c'erano probabilmente delle posizioni scoperte sul titolo, che ovviamente non possono essere ricoperte col diritto. Qualcuno ha anche probabilmente esercitato l'opzione di acquisto, per cui chi era in posizione cosiddetta corta, cioè aveva venduto i titoli senza averli, ha dovuto correre a comprare il titolo abbastanza di corsa, e quindi il titolo si è spostato verso l'alto, si è spostato verso il canto, poi si è riaggiustato. Alla fine in realtà noi abbiamo fatto i calcoli, la parità è più favorevole al diritto, cioè se oggi io dovessi comprare qualcosa comprerei il diritto e non il titolo. Ok, molto tranquillo, il titolo ha già fatto -0.70% a 1,77 euro. Fabrizio Viola, l'amministratore delegato, molto tranquillo, dice: non mi spaventano un paio di giorni di sali scendi. Non mi sembra, ci sono stati due giorni di volatilità, ma vista la dimensione, il termine pandemonio non mi sembra il termine esatto. Nessun pandemonio, anche perché di pandemoni Monte dei Paschi ne ha vissuti già parecchi. Allora, per quello che riguarda il resto, mi può spiegare una giornata in cui sostanzialmente il mercato non ha avuto, mi sembra, una gran direzione? Abbiamo un minuto, perché bene è andata Saipem +2.60, Telecom +1, come Eni +1, Tenaris +0.60. Sì, oggi sinceramente io non ho visto notizie particolari, diciamo che un minimo di correzione era anche possibile, il mercato ha performato abbastanza bene dopo i provvedimenti annunciati dalla Banca Centrale Europea. Sì, continua l'effetto. C'è sempre l'effetto del mercato americano sulla cui solco poi aprono e chiudono i mercati europei. Io consiglio a chi segue la borsa di non guardare il rumore di fondo quotidiano e di avere invece più chiaro il percorso di medio periodo per avere una prospettiva un po' più, più di maggior respiro, ecco. Però di ascoltare Focus Economia, no? Scherzo, sì, mentre Focus Economia no, di non guardare. Ma dunque, mi scrive un ascoltatore: se ho mai pensato di fare il pubblicitario, quando c'era Prodi facevo pubblicità a Prodi, quando c'era Berlusconi facevo pubblicità a Berlusconi, con Renzi, con Letta pubblicità a Letta, con Renzi ci penserò, pubblicitario bipartisan. aiutare il governo in tutto ciò, oltre che ovviamente promuovere attività di strumenti come il Fondo Italiano di Investimento e tramite la Cassa Depositi sostenere l'economia in questa fase delicata. Stiamo lavorando, Ministero dell'Economia e Finanza, Ministero dello Sviluppo Economico, Banca d'Italia, in stretta collaborazione con gli stakeholders con cui abbiamo avuto intensi scambi di idee, a delle misure, alcune delle quali spero possano essere approvate dal governo già nei prossimi giorni, volte a non solo dare stimolo immediato, ma soprattutto a cambiare il sistema di incentivi in base ai quali il finanziamento va all'economia, in termini di stimolo di investimenti pubblici e privati, in termini di potenziamento dello strumento della garanzia pubblica, anche valutando assieme alla Banca Europea degli Investimenti altre iniziative, sviluppo di fondi di credito sulla scia di altre esperienze internazionali, maggiore partecipazione al finanziamento di imprese e delle infrastrutture, misure per favorire l'apporto di capitale proprio nel tessuto imprenditoriale. Allora, così il Ministro dell'Economia oggi alla Borsa Italiana, il Ministro dell'Economia chiaramente Padoan. Per quello che riguarda le dichiarazioni che ha reso, c'era anche quella a cui facevo riferimento prima, sul sistema bancario italiano, che ha dimostrato un'enorme capacità di resistenza durante la crisi, ma adesso, dopo le misure della Banca Centrale Europea, può dare una nuova spinta e un nuovo contributo. E gli ha risposto a stretto giro il presidente dell'ABI, delle banche italiane, Antonio Patuelli. Siamo già attivi per la ripresa, il settore bancario è quello che più è avanti nella spinta per investimenti per favorire la ripresa, e noi lo chiediamo anche a chi rappresenta invece le banche estere in Italia, visto che oggi l'AIBE, che sarebbe l'associazione delle banche estere in Italia, ha presentato il report annuale sull'attività nel 2013. Presidente Guido Rosa, buonasera. Buonasera, ben ritrovati. Allora, diciamola tutta, adesso, al di là dell'attività vostra, insomma, ma continuare a dire noi stiamo già facendo il massimo per l'economia non è un po' anche smentire di fatto quello che ha deciso Mario Draghi? O meglio, o sono solo le banche che sono in Italia che già lo stanno facendo, o sono, Draghi ha detto chiaramente vi rendo negativi i tassi overnight, e infatti da 25 miliardi di deposito la sera siamo scesi a 13 perché sono negativi, e poi ha detto do 400 miliardi alle banche a tassi molto agevolati perché li investono nell'economia e nelle famiglie tranne i mutui, se però dovessero usarli per altri fini me li devono ridare con una penale. Ora, questo, da come lo capisco io, è una banca centrale europea, un Mario Draghi che dice occorre che passi più denaro da quello che io presto all'economia reale. Sì, effettivamente ha detto tutto lei, nel senso che... No, però ho detto tutto io, ma vorrei capire se lei è d'accordo. Sì. No, perché poi l'ABI risponde, no, ma noi stiamo già facendo il possibile. Certo, allora, le misure di Draghi sono sicuramente qualcosa di positivo, perché aggiungono liquidità, e liquidità mirata e a basso costo al sistema. Detto questo, però, non posso impedirmi di dire che, soprattutto in Italia, ci troviamo in una situazione nella quale effettivamente c'è pochissima domanda o poca domanda di credito cosiddetto buono. In altre parole, uscendo da una situazione di crisi, e questo è assolutamente normale, le aziende, molte aziende, si ritrovano in situazioni finanziarie delicate e vorrebbero che il loro indebitamento fosse rifinanziato, o addirittura che i finanziamenti si sostituissero al capitale. Questo naturalmente non è possibile. In altre parole, le misure di Draghi vanno sicuramente nel senso buono, però c'è un'altra parte della medaglia che è altrettanto importante, che è quella della domanda del credito buono. E questo si potrà sviluppare solo, è un meccanismo circolare naturalmente, si potrà sviluppare solo intanto in quanto l'economia si riprende, le aziende incominciano di nuovo a investire, non per ripianare le perdite pregresse, ma in programmi futuri, macchinari, magazzino e quant'altro. Ecco, in questo senso Certamente il sistema bancario in Italia, ma le banche estere, poi se mi permette ritornare su questo, certo, sono disponibili. Dico le banche estere perché oggi abbiamo pubblicato appunto i dati sul 2013 ed è in qualche modo confortante vedere che negli ultimi due o tre anni, perché ormai questa rilevazione dura da cinque anni, nonostante la crisi e nonostante la pessima reputazione del sistema Italia, l'apporto delle banche internazionali in Italia, anche e soprattutto in termini di credito, è rimasto sostanzialmente costante. Quindi vuol dire che c'è una fiducia nel sistema. C'è una visione abbastanza positiva, però perché questa si tramuti e si traduca ancora in una dinamica più elevata, c'è bisogno di quella spinta economica e soprattutto c'è bisogno che questo sistema Italia affronti il tema ormai ripetuto, ma che è assolutamente basilare, delle riforme strutturali attraverso le quali si può rilanciare l'economia. Adesso l'ultimo tema del programma sarà la riforma della pubblica amministrazione, per cui su questo arriveremo. Mi dica però un'altra cosa. Sul fronte dell'acquisto, nel vostro rapporto c'è un passaggio anche importante sul debito pubblico. Sì. Quant'è la quota dei titoli di Stato detenuti dai non residenti? Perché era scesa pericolosamente quando ci fu l'attacco all'euro e al debito di Italia, Spagna e altri paesi, mi riferisco a fine 2011 e poi 2012. Adesso la quota dei non residenti quant'è? Dunque, la quota dei non residenti dovrebbe essere attorno al 40%. Che è già una cosa buona, lo dico perché... Non c'è dubbio. Perché anche se c'è chi sostiene che dovremmo ricomprarci tutto il nostro debito, attenzione, insomma, no, magari avere anche un po' di diversificazione su chi detiene il nostro debito. Prego. Questa che noi dovremmo ricomprare il nostro debito mi sembra veramente un'assurdità, cioè se c'è qualcheduno che vuole mettere, che i soldi, vuole mettere dei quattrini, ben vengano, no? Anche perché sono quattrini che generalmente vengono da fonti assolutamente impeccabili dal punto di vista dell'investimento, anche se c'è da dire che naturalmente questi investimenti molto spesso hanno un'ottica un po' di breve termine, no? Perché naturalmente gli investitori vengono a comprare i titoli italiani perché tutto sommato si è creato anche un'aspettativa positiva nei confronti del sistema italiano, perché hanno dei rendimenti leggermente superiori, anzi un po' superiori rispetto ad altri. Quando questa situazione dovesse cambiare, naturalmente potrebbe cambiare anche l'atteggiamento, come dire, di investimento di breve termine. Però se, ripeto, dovesse cambiare nel senso che finalmente si dovessero attuare quella serie di riforme, io credo, spero, che questi investimenti di breve termine si tradurranno invece, che è ancora più importante, in investimenti strategici a medio e lungo termine da parte delle imprese, perché è così che si crea ricchezza, valore aggiunto, posti di lavoro e aumento del PIL. Ancora due cose rapidamente. Beh, insomma, Mario Draghi vi ha fatto una brutta sorpresa rendendo negativo il tasso overnight, quello in cui le banche europee depositavano i soldi nottetempo alla BCE e poi se li riprendevano la mattina, visto che lei rappresenta, oltre che JP Morgan, Citigroup, anche il Banco Santander, Société Générale, BNP Paribas, Barclays, Deutsche Bank. Insomma, il dato di oggi, che sono scesi da 25 miliardi a 13 miliardi di depositi, dimostra però che a pensar male si fa peccato, ma si ha ragione. Ma questa è una misura dissuasiva che tutte le banche centrali... Alla faccia, meno della metà sono... Sì, beh, no, dissuasiva nel senso di depositare i denari naturalmente. Certo che a questo punto sono diminuiti, anche perché io mi auguro che questo possa essere interpretato in senso positivo, perché comunque siamo di fronte a una leggera ripresa dell'economia in Europa e, da quanto possiamo capire dagli ultimissimi dati, anche in Italia. Quindi si riavvierebbe quel circolo virtuoso per cui i quattrini non solo non sai a chi darli, ma anzi li riprende, perché si sta affermando quella domanda di credito buono di cui parlavo prima. Un'ultima domanda: lei è anche vicepresidente dell'ABI? No, lo ero. Allora me lo dica da ex vicepresidente dell'ABI. Senta, ma visto che voi siete molto impegnati come banche, sia quelle straniere in Italia, sia quelle italiane in Italia, al dato reputazionale, a recuperare anche reputazione, ne abbiamo parlato con il numero uno dell'Unicredit Ghizzoni lo scorso fine settimana a Santa Margherita Liguri per i giovani imprenditori. Ma insomma, non è che al di là delle varie iniziative, se poi non riuscite o l'ABI non riesce per statuto, non dico per cattiva volontà, a espellere uno come Berneschi e con tutte le cose che viene accusato, l'ex numero uno della Cassa di Risparmio di Genova, poi qualunque iniziativa voi potete prendere viene... mi verrebbe un'altra parola, ma viene così cancellata da questo danno reputazionale? Beh, questo non c'è dubbio. Io sono uno di quelli che pensa che un conto, come dire, è la giustizia di per sé, per cui un atteggiamento potrebbe essere quello di dire io non metto in galera chi non è ancora stato condannato, e questo è assolutamente un principio da affermare. Altro conto è il come dire, la prudenza del buon padre di famiglia, che comunque non affida i propri figli, anche se non è un imputato, a chi del quale non ha fiducia. Quindi bisogna assolutamente che l'associazione in qualche modo prenda delle misure per isolare, perché sono casi isolati, ma che gettano un discredito terribile non solo sull'associazione in quanto tale, ma su tutto il sistema bancario. Credo che in questo senso ormai ci sia una coscienza ben affermata e nel futuro vedrà che probabilmente le persone che verranno scelte, poi sa, la vita è pur sempre... No, ma io non dico nulla, uno può essere scelto perché non c'era ancora notizia di reati, di indagine, certo, del PM, però poi la sospensione dovrebbe essere appunto cautelativa, fermo restando la presunzione di innocenza nel nostro paese, però di fronte a certe accuse, quantomeno se non arriva l'autosospensione dovrebbe arrivare la sospensione. Ma lo dico a voi, perché poi è inutile fare tante campagne se poi non si riesce a prendere certi provvedimenti. Grazie comunque al presidente dell'Associazione delle Banche Estere che operano in Italia, Guido Rosa. Il traffico, e poi vediamo a che punto è lo scontro anche dentro il PD, ma soprattutto sulla riforma della pubblica amministrazione. È circolato di tutto. Oggi il ministro Madia, che ha la delega, ha dato alcune precisazioni. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, nell'ordine, leggo tante cose sulla riforma, nulla di ciò arriverà al Consiglio dei Ministri, così il ministro della pubblica amministrazione Marianna Madia. Spero che l'impegno del sindacato sia chiaro contro la resistenza al cambiamento. Non ho mai immaginato i 100 chilometri come tetto sulla mobilità, ma la mobilità serve, non pensiamo di stravolgere la vita delle famiglie. Dovrebbe arrivare un taglio di almeno l'1% nei prossimi 5 anni alle spese della pubblica amministrazione. Poi però arrivano anche il telelavoro e i voucher per la babysitter, le puericoltrici, le badanti, le convenzioni con gli asili nido e i bonus legati al PIL, ma al massimo con un tetto al 15% dello stipendio, collegati a obiettivi raggiunti da parte dell'amministrazione. C'è un po' di tutto oggi nelle più o meno correzioni che ha dato il ministro Madia. Domani il provvedimento arriva in Consiglio dei Ministri. Davide Colombo, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Dici tu che cosa hai capito, perché insomma adesso tutti si concentrano sui 100 chilometri. Dicevamo prima che a me dei 100 chilometri interessa relativamente poco, se si instaurasse il principio della mobilità vera nella pubblica amministrazione, poi che siano 150 o 40, queste sono cose che sono elementi anche di trattativa. Confermato che nel decreto vi sarà anche il rincaro del bollo del 12% nel 2015 e dell'eliminazione del super bollo per le auto più potenti, questa non l'ho capita. Comunque, eliminata anche l'imposta sui passaggi di proprietà dell'usato. Mi senti? Sì, eccoci. Vai. Sì, sì. Dunque, quest'ultima cosa che dicevi è un po' legata al ridisegno della tassazione sui veicoli, che è legata a sua volta al superamento in corso delle province. Scompare l'IPT e il superbollo in virtù della nascita di una imposizione regionale, diciamo, sulle solo nuove immatricolazioni, parrebbe, ma poi saremo a vedere il provvedimento finale come sarà configurato, con questa ipotesi di aumento fino a un massimo del 12%. Per la parte pubblico impiego, secondo le ultime notizie che sono uscite anche dall'incontro sindacale, pare che non ci siano più i prepensionamenti sui dipendenti in esubero, è in discussione questa misura. Cioè quella dei 2 anni? Era una misura in qualche modo figlia della spending review del 2012, quella che era stata fatta dal governo Monti, cioè in caso di riorganizzazione di uffici, di ristrutturazioni, di cambiamento del perimetro di alcune amministrazioni, laddove si configurassero degli esuberi, questi esuberi possono essere gestiti anche con prepensionamenti se sono a 2 anni dal della maturazione dei requisiti. Ecco, questo provvedimento non c'è più, ci sono però quelli sulla mobilità di cui parlavi, e sicuramente non saranno 100 chilometri la distanza massima tra le sedi di amministrazione dove si potrà fare la mobilità obbligatoria. Ci sarà la cancellazione dell'istituto del trattenimento in servizio, sulla quale ci sono forti reazioni dalla magistratura. Si è espresso il presidente Santa Croce della Corte di Cassazione, paventando un dimezzamento dell'organico della Corte Suprema. Ieri lo avevano fatto anche i magistrati della Corte dei Conti. Stiamo parlando di circa 350-400 magistrati che in questo momento sono in servizio oltre i limiti di età, per l'appunto con l'istituto del trattenimento. Si tratta di magistrati che coprono gli uffici apicali della magistratura, cioè appunto la Cassazione, i presidenti di sezione, i presidenti delle corti d'appello, i presidenti di tribunale, eccetera. C'è un'ipotesi di norma transitoria per fare in modo che questi contratti in essere possano essere per l'appunto mantenuti fino alla fine dell'anno, e nella bozza di decreto su cui abbiamo lavorato ieri si parlava del 31 ottobre, ma appunto staremo a vedere domani che cosa arriverà. L'altra novità grossa che abbiamo visto oggi nella bozza invece del disegno di legge delega è quella a cui facevi cenno poco fa, è questa riduzione lineare dell'1% sulle spese complessive delle amministrazioni centrali e di quelle periferiche. È una misura strutturale, almeno per il prossimo quinquennio, a far corso dall'anno prossimo. È un 1% in meno rispetto alla spesa del 2013. Letta così sembra una norma che rende strutturale quello che il commissario straordinario alla spending review Cottarelli aveva definito il portafoglio minimo per consentire di effettuare, di raggiungere gli obiettivi. Ma scusami, di quanti miliardi stiamo parlando? Perché complessivamente le spese della PA, però insomma dentro c'è di tutto, ci sono anche le pensioni e quant'altro, sono più di 800 miliardi, i beni intermedi sono 140. Qual è la cifra? L'1% su cosa, da quello che tu hai capito? Dunque, se leviamo dagli 800 miliardi che tu hai cifrato adesso la spesa previdenziale e la spesa sanitaria, potremmo stare su un perimetro, per gli stipendi della pubblica amministrazione, potremmo stare su un perimetro di 270-300 miliardi. Immaginiamo un 1% di quel perimetro lì strutturale. Sono 2-3 miliardi all'anno in meno per i prossimi anni. Esatto, in meno. Allora, lo dico perché abbiamo avuto numerosi ospiti su questo. L'importante non è tagliare 20 miliardi in un anno per poi scoprire che devi reinserirli, ma arrivare a una riduzione strutturale. Temo che molte decisioni verranno prese in fase di legge delega e che domani avremo solo le dichiarazioni di principio, ma staremo a vedere. Grazie intanto per questo aggiornamento a Davide Colombo del Sole 24 Ore. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, l'auguro di una buona serata, noi ci sentiamo con Focus Economia domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.